sarà un uomo. Stanno già salutando quelli nati senza televisione. Sarà un uomo. Stanno finendo quelli che hanno camminato senza scarpe. E tutti quelli che non hanno capito cosa vuol dire hi-fi. E tutti quelli che vogliono le orchestre, non si fidano dei DJ. Sarà un uomo. E il jazz che li ha fatti incontrare è già un suono lontano. C'è chi ha fatto di tutto per dargli il caldo che non fa sudare, il freddo che non fa battere i denti. È un mondo così piccolo che si gira tutto in un minuto. È un orizzonte che è molto più là di tutte le stelle. Che sarà un uomo e avrà qualcosa che somiglia a una casa, un'automobile nuova. Sarà un uomo a fare il figo camminando nel cielo per farsi notare. Con i suoi mamma, non mamma, mamma, non mamma più. Con i suoi se deve partire un bacio che sia di quelli che non scordo. Nascerà troppo tardi per essere curioso. Sarà un uomo. Se avrà ancora più di mille motivi per essere invidioso. Con i suoi mamma, non mamma, oddio, non mamma più. Con i suoi se deve partire un bacio che sia di quelli che non. La dance che ci fa adesso ballare sarà un rumore lontano.